America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. Donald Trump col Dipartimento per la Giustizia è tornato all'attacco della Corte d'Appello con una richiesta molto più specifica e molto più, come dire, intimidatoria. La dichiarazione del Dipartimento della Giustizia è che bloccare l'ordine esecutivo contro gli immigrati da 7 paesi islamici mette in pericolo gli Stati Uniti d'America. Ecco, Donald Trump torna all'attacco con queste dichiarazioni roboanti. Il problema e che sembra aver perso momentum su questo tema, eppure continua a insistere, è tipico di Trump. Vedremo come andrà a finire. Oggi dovrebbe esserci la risposta della Corte d'Appello. Nel frattempo continua a montare l'opposizione contro questo ordine esecutivo di Trump. Sentiamo. Nearly 100 companies are joining the legal fight against President Trump's executive order on immigration. È scesa in campo la Silicon Valley. 97 società del settore high-tech, da Apple a Zynga, per intenderci, dalla A alla Z, passando naturalmente per Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Uber, solo per citarne alcune, hanno deciso di schierarsi contro la Casa Bianca sulla questione dell'immigrazione. Hanno presentato alla Corte d'Appello del Nono Circuito un documento in cui hanno messo in luce l'importanza che gli immigrati hanno nell'economia e nella società, sottolineando che la decisione di Trump danneggia i loro affari e va a violare le leggi sull'immigrazione, sulla Costituzione statunitense. Contemporaneamente 16 stati americani, tra cui New York e la California, hanno presentato, sempre alla Corte d'Appello di San Francisco, un documento in cui anche loro si schierano contro il bando sui musulmani di Donald Trump. Dunque è uno schieramento che sta diventando sempre più vasto, sempre più importante, e contro il quale Donald Trump, sotto un certo punto di vista, sembra essere irriducibile. Vediamo come andrà la sentenza alla Corte d'Appello. Intanto Trump continua a difenderlo un po' dappertutto. Sentiamola, la MacDill Air Force Base in Florida. As your president, I have no higher duty than to protect the American people. Ecco, continua a insistere Trump su questo fatto che lui deve proteggere gli americani. Dice: io, il mio dovere è proteggere gli americani, è il mio dovere più alto, tutto il resto è secondario. E Trump sostiene, e qui entriamo un po' in un Trump classico, che non è vero che oltre il 50% degli americani sarebbe contrario il bando, e sottolinea: ogni sondaggio negativo è una notizia falsa, un fake news, così come lo sono stati i sondaggi di CNN, ABC, NBC durante le elezioni. Mi dispiace dovervelo dire, ma le persone vogliono più controllo e più sicurezza sui nostri confini. Ecco, il problema è che non si capisce che rischi ci sono per questi immigrati che arrivano da questi 7 paesi e non dall'Arabia Saudita, per esempio, dove è partito Bin Laden e da dove sono partiti gran parte di coloro che hanno attaccato le torri dell'11 settembre. Insomma, Donald Trump va avanti fino in fondo, una battaglia affascinante. Siamo all'inizio della terza settimana della presidenza Trump. Io credo che il presidente si renda conto che il terreno è accidentato, insidioso, e di nuovo ha fatto uno scivolone l'altro giorno, qui parliamo di domenica, che secondo me però potrebbe avere un impatto. Sentiamo questo scambio. I do respect him. Do you? Why? Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent? Ecco, questa è un'intervista di Trump alla Fox News con Bill O'Reilly, che è un conduttore della destra. Trump dice: io rispetto Putin. Bill O'Reilly gli dice: ma Putin, ma è un assassino, è un killer. Come dire, com'è possibile poter negoziare e parlare con una persona di questo genere? Trump a quel punto, senza perdere un secondo, dice: ma ci abbiamo anche noi un sacco di killer. Ma tu credi che gli Stati Uniti siano davvero così innocenti? Ecco, dicendolo, Donald Trump non si è accorto di aver fatto una gaffe che potrebbe avere, secondo me, un impatto determinante su certi modi in cui si comporta. Perché questo dire che Putin è un killer, come lo sono molti americani, potrebbe rappresentare una svolta nel modo in cui saranno gestite le uscite e le comunicazioni del presidente americano. Dopo i passi falsi, per esempio questo sull'ordine esecutivo dell'immigrazione, di cui abbiamo parlato prima, potrebbe scegliere di limitare la libertà concessa ai suoi consiglieri della Casa Bianca. Ve ne parlai tempo fa, sono coloro più aggressivi come Stephen Bannon, sono coloro che cercano di tenere il presidente sempre sul piede di guerra elettorale, come se facesse sempre campagna. E Trump, dopo la scivolata anche dell'ordine esecutivo, potrebbe chiedere di essere coinvolto più direttamente nelle fasi preparatorie per certe scelte o certi annunci politici. Ecco, io credo che forse Trump, questo lo dicevamo la settimana scorsa, quando Trump si accorgerà che forse questi consiglieri lo danneggiano più che aiutarlo, ecco, forse ci siamo arrivati, forse si è reso conto che è importante essere gestito piuttosto che essere totalmente libero con tutti i rischi del caso. E secondo il New York Times, che tra l'altro ci ha dato ieri un ritratto molto gustoso del presidente nella sua vita privata, una vita privata anche in solitudine alla Casa Bianca, ecco, secondo il New York Times Trump soffre di questi sondaggi negativi, perché da una parte dice sono fake news, non sono veri, eccetera eccetera, dall'altra è in continuazione molto attento a quello che succede in televisione, a quello che si dice, ed è sconvolto dal fatto che i giudici non abbiano accolto questa sua mozione, almeno finora, per rendere valido questo suo ordine esecutivo. So another big week for the Trump administration. Judge Gorsuch, that rolled out one very smoothly, I think. Yes, it did. Yes, it did. But... Ecco, ma torniamo all'intervista di O'Reilly, perché la verità è che Trump, con questa intervista, per questo ci sarà, secondo me, questa sua riflessione, perché si renderà conto di aver passato un limite, perché con questa singola frase, e cioè, anche noi abbiamo gli assassini, pensi che siamo degli innocenti, e di fatto cosa fa? Dà un assist a chiunque in qualunque parte del mondo insiste sul fatto che l'America sia una potenza imperialista, magari in rappresentanza del diavolo, votata a distruggere autonomia e indipendenza, in ultima analisi le vite stesse di molti cittadini del mondo. Insomma, Trump avrebbe voluto dire qualunque altra cosa in quella risposta a O'Reilly, ma che lui, il presidente americano, in un confronto con un leader straniero controverso del calibro di Putin, ammetta che gli Stati Uniti di fatto sono come la Russia, è parso a tutti davvero troppo. Sono intervenuti molti dal Parlamento per prendere le distanze, in particolare Mitch McConnell, che è il capo della maggioranza al Senato. Ecco, dunque stiamo a vedere se davvero ci sarà questo cambiamento. Sarebbe una svolta importante, attenzione, perché significa cambiare il passo dal ritmo elettorale al ritmo di governo, di cui abbiamo parlato di nuovo in passato. Ecco, vorrei tornare su questo articolo del New York Times, perché è un articolo visto dal di dentro, ha parlato evidentemente con fonti molto vicine al presidente, e il New York Times ci dice che Donald Trump è molto solo. Verso le 6:30 di sera, dopo una giornata di lavoro faticosa, per cui lavora molto, si ritira nel suo appartamento ed è da solo, perché la moglie Melania e il figlio sono a New York. Spesso è con lui Keith Schiller. Keith Schiller è la sua fedelissima guardia del corpo dai tempi di New York. E che questo fatto, che questo suo duro lavoro e questa solitudine d'ufficio, perché poi alla fine il presidente è solo, siano poi ripagati con critiche brusche cadute nei sondaggi, insomma, non va più bene. Trump potrà fare la voce grossa, ma non gli piace, e forse ha capito, come vi dicevo, che la stagione elettorale è finita e occorre indossare il panno del presidente di tutti, non del presidente polemico. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!